es blenden su in alto cielo, ma io mi trovo in un buco nero. Ho perso tutto, forse anche il tempo, e molto presto anche me stesso.